Ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. E poi abbiamo il testosterone. Fa da padrone, fa esatto. Anche un po' rima, no? Abbiamo ossitocina, dammi una carezzina. Testosterone, basta. Bellissimo, è un bellissimo messaggio. Adesso però non vorrei che i nostri ascoltatori andassero a casa e dicessero: guarda, ti devo confessare una scappatella, sono in crisi da ossitocina, ero in crisi in astinenza ho poca ossitocina. Ragazzi, non vale. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, siamo anche quasi un po' emozionate, Nicoletta, perché questa è proprio la prima uscita ufficiale di Cuore e Denari. È vero, è anche la prima trasmissione delle dirette di Radio 24. Infatti, perché tutto il palinsesto appunto della nostra radio presente qui a questa iniziativa. Oggi dobbiamo fare una bella figura. Sì, dobbiamo tirarci su con l'autostima e convincere che siamo le migliori. Ecco qua, abbiamo già fatto un primo esame da agente di commercio e speriamo di essere state promosse dal nostro pubblico che è qui presente in fiera. Non sono stati minacciati, vorremmo raccontarlo un po', regalare queste immagini agli amici che invece ci seguono dalle vie tradizionali appunto della radio. Sono in tanti gli agenti di commercio oggi presenti alla manifestazione appunto della quale vi parleremo, ma soprattutto che sono presenti qui in studio con noi e che speriamo poi facciano anche delle domande, no? Certo. Ma su quali temi li intratterremo, Nicoletta? Noi vogliamo capire un po' come vive l'agente di commercio e abbiamo visto che vive è una persona che deve convincere spesso gli altri e quindi deve lavorare anche sulla sua autostima, le relazioni sono importanti. È una persona che si muove in continuazione, spesso si muove in macchina e se si muove in macchina sedentario, ecco un altro aspetto che ci avvicina all'agente di commercio anche se non facciamo l'agente di commercio, anche lui deve gestire lo stress nelle relazioni e deve anche, Deborah, fare i conti come tutti noi. Intanto con adempimenti fiscali. Esatto, un po' anche con la crisi, quindi oggi mi piacerebbe anche sapere che questa, se questa è una professione adatta anche, come dire, a tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, se è una professione che stanno cavalcando anche magari i giovani e soprattutto quali sono anche oltre agli adempimenti le altre regole un po' che disciplinano la vostra professione. Quindi io invito sia gli amici che sono qui in studio ma anche tutti quelli che ci seguono da casa a chiamarci all'800 24 00 24 o a scriverci al 349 238 6666. I canali per raggiungerci sono tanti e li conoscete. Ma insomma, con chi faremo parlare? Dalla stretta di mano, che è molto importante per stabilire subito un'empatia, alla postura, alla schiena, alla sedentarietà, come muoversi, come mangiare, ma soprattutto come diventare agenti di commercio. Allora, bando alla timidezza, promuoviamo noi stessi, partiamo. Salva Danaio. Non ha importanza se cerchi di vendere Gesù o Buddha o i diritti civili o come arricchirsi nel settore immobiliare senza rischiare un soldo. Questo non fa di te un essere umano. Semmai fa di te un agente vendite. Se vuoi parlare con qualcuno sinceramente, da essere umano, chiedigli dei suoi figli. Scopri quali sono i suoi sogni, solo per saperlo, per nessun'altra ragione. Perché appena cerchi di prendere le redini di una conversazione per pilotarla, non è più una conversazione, è un pistolotto. Allora, convincere qualcun altro, con una stretta di mano, con un sorriso, con un'argomentazione, questo è un po' il lavoro degli agenti di commercio, vorremmo impararlo anche da voi, vorremmo invitare i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi, perché in ciascuno di noi c'è un piccolo agente di commercio, ogni giorno noi ci dobbiamo mettere in relazione con qualcun altro, dobbiamo promuovere il lavoro che facciamo, dobbiamo entrare in sintonia. Qua accanto a me il professor Massimo Pagani, che è professore di clinica medica all'ospedale Sacco Università di Milano. Intanto professore, buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Perché un medico a parlare di agenti di commercio? Perché professor Pagani, insomma, l'agente di commercio è un prototipo. Per voi medici le ha tutte dei modi di vivere che voi studiate, analizzate e che a volte approvate e in altri casi invece cercate di far cambiare. prendiamo come esempio dello stile di vita. Ma io partirei dicendo che l'agente di commercio è un ottimo esempio per noi medici. Noi siamo abituati a dare degli ordini nelle condizioni gravi. Quando ci occupiamo di benessere, di stili di vita, di alimentazione, di stress, di attività fisica, a quel punto non abbiamo lo strumento dell'ordine, ma dobbiamo entrare in empatia con i pazienti e cominciare a, si perdoni il termine, vendere, avere una specie di commercio con i pazienti e con la loro famiglia. Quindi anche voi medici fate un po' gli agenti di commercio della salute, no? Promuovete la salute? Assolutamente sì, e con dei risultati che sono straordinariamente sconfortanti. Per questo io sono qui più a imparare che a dire cosa va fatto. Dategli una mano, 800 24 00 24, forse gliela darà anche il nostro prossimo ospite. Allora, se siamo qui non è un caso, perché ci ha invitato molto gentilmente Davide Ricci, che è uno dei fondatori di Agenti.it, oltre che presidente di Agent 321, poi ci spiegherà che cosa si nasconde dietro questa sigla misteriosa. E allora, intanto le chiedo subito se condivide questa indicazione che ci ha dato il nostro medico, e soprattutto ci racconti un po' la professione di commercio, perché non è sicuramente, come magari noi superficialmente pensiamo, un solo venditore. Allora, intanto benvenuti. Grazie. Buongiorno, benvenuti a tutti a Forum Agenti. Vi rubo un secondo per ringraziare tutti gli agenti per che sono promuoversi, perché ne abbiamo già qua, che sicuramente ora si faranno sentire, sono convinto, con un applauso magari, chissà. È una un cosa clap che, clap, eccolo qua, esatto, grazie. Esatto. E quindi, e poi sono felice con Cuore e Denari, la prima uscita di Cuore e Denari, avervi qui con Radio 24. Speriamo che ci porti bene, sì, la prima di tante altre. Sì, assolutamente sì, siamo in un posto dove ci sono tanti venditori, tanti agenti di commercio, quindi anche Cuore e Denari venderà la sua immagine. Molto tutto bene. Oggi. Sono d'accordo con il professore, assolutamente. Lui ha detto, mi scuso per la parola vendita, no, la vendita è una cosa meravigliosa, cioè è giusto che un medico venda, perché poi alla fine è il risultato, no? Il fatto che vendendo un po' dei sani stili di vita ad un paziente si riesce a lui stia meglio. Poi la vendita è un po' tutto, insomma, nella certo. vita, qualsiasi cosa. Vogliamo fare subito la prova della stretta di mano con sì, Davide? Cerco di oppure la facciamo fare stretta di mano? Mi sembra molto convincente, molto Vedi? Confortante. Fammi sentire, quindi Davide. Vediamo un po', perché lei ha una, come dire, una... No, perché la stretta di mano... Una sensibilità parte. Forse diversa. Come, si parte sembra? Subito da lì. Allora andiamocene via subito, se no ci vende qualcosa. Direi di andare avanti. Certo. Professor Pagani, i gesti dicono molto. Nella relazione del medico-paziente, dato che lei vuole imparare dai nostri agenti di commercio, il gesto è quasi parte della terapia, la carezza, la stretta di mano, guardarsi negli occhi. Assolutamente d'accordo. Per esempio, noi abbiamo una gestualità importantissima, che è avere il camice o non avere il camice. Certe cose si possono vendere più facilmente senza camice, che instaura un rapporto empatico molto più morbido. Altre è meglio che abbiano il camice, che è veramente una difesa, ma una difesa dalle emozioni, non soltanto del paziente ma anche del medico. Quindi questa idea della stretta di mano, spesso il medico dà la stretta di mano al suo paziente, ma non sempre, e anche qui entriamo in una empatia molto forte o più blanda, e sta all'esperienza, perché non viene insegnato. E una volta di più dico, qui da voi posso imparare. Energica, molle, sgusciante o a sandwich, la stretta di mano, e il signore lì davanti ride. Esatto, no, perché ci sono delle mani morte, mamma, che insopportabili, diciamocelo, un po' sudaticce, che quando no, ti danno un po' io invece un'idea. Ieri per esempio non sapevo cosa fosse quella sandwich, invece è quella appunto della persona che prende con entrambe le sue mani, la mano nella mano dell'altra, né troppo né troppo lo vuole trattenere, poco. Insomma. E poi c'è il linguaggio del corpo, professor Pagano. Ah, qui qua è troppo vicino, troppo lontano. È una musica del corpo, più che un linguaggio, proprio un linguaggio armonico o disarmonico. E il linguaggio comprende anche gli odori del corpo. Certo. I feromoni, la tendenza per cui un ricordo anche lontanissimo, molto ricco, viene suscitato da un profumo piccolissimo. C'è un capolavoro mondiale che tutti conoscono, magari non l'hanno letto, io non sono riuscito a finirlo, che è il tempo perduto di Proust, sì. In cui la Madeleine e i profumi sono assolutamente la strada, il motivo conduttore di quel romanzo, e secondo me sono il motivo conduttore della vita, l'odore dell'ospedale, l'odore di un negozio, di un bar, di una caffetteria dove ci siamo incontrati e abbiamo reciprocamente venduto la nostra vita. Magari alla fine era un'automobile, oppure una decisione di smettere di fumare. Allora, e anche un po' poeta, esatto, il nostro professor Pagani. Davide Ricci, avete mai pensato alla vostra professione anche come a quella appunto che esprime tutto quello che ci indicava adesso il professor Pagani? Poi andremo anche a raccontare un po' più nel dettaglio la professione, quanti siete, cosa fate. Però insomma, vi vedete certo anche come... Allora, assolutamente sì, nel senso che quello che ha detto il professor Pagani, perché lui vive naturalmente, ha parlato di camice, no? Quindi è importante magari dare una notizia o comunicare o parlare con un paziente più o meno come il camice. Per un agente di commercio, ad esempio, che quotidianamente deve visitare dei clienti, è importante il luogo che ragiona un po' come il camice. Faccio un esempio, molto spesso io quando parlo con un cliente posso dire determinate cose seduto alla scrivania e magari invece è opportuno che un altro tipo di messaggio, non so, che non posso fargli tutto quello sconto che devo magari alzare tutta la sua altezza, no, statura non solo morale ma anche fisica. Di solito lo si porta al bar e allora con lo caffè. Quindi il bar è un po' il sostituto del camice del medico. Anche se voi vogliamo, giustamente insomma, avete le vostre strategie. Sì, quanti sì siete in sono Italia, Davide Ricci? Qual è l'identikit della vostra professione? Allora, gli agenti di commercio in Italia sono 240.000 e movimentano il 70% del PIL. Quindi questo vuol dire che non una è poco, potenza. Una potenza. Tra l'altro che cosa succede? Che se noi ci guardiamo intorno, sia gli ascoltatori di casa piuttosto che quelli che sono con noi in studio, qualsiasi cosa voi vedete, ad esempio il blocco sul quale io sto prendendo appunti, il computer con il quale siamo collegati con la redazione, i nostri microfoni, è stato tutto venduto. È stato tutto venduto e qualche agente di commercio ha percepito delle provvigioni per questa cosa qua. Questa è una cosa fantastica. Siamo circondati dal lavoro degli agenti di commercio. Esatto. Volevo chiedere una cosa. Prego. Molti uomini, direi, adesso mi tolgo bene gli occhiali, quasi tutti uomini tranne qualche poche donne. E magari non sono perché neanche agenti così di commercio. Perché è così maschile questa professione? È una professione maschia. Allora, ci sono naturalmente l'evoluzione dell'agente di commercio nel tempo, naturalmente, perché gli agenti di commercio ci sono sempre stati. Dove c'è stata una vendita c'è comunque dietro un agente di commercio, che naturalmente non era riconosciuto dal codice civile perché magari in antichità non c'era, però è sempre stata una vendita e quindi è una professione che abitualmente facevano i mercanti e quindi dovevano fare dei lunghi viaggi ed era più adatto che erano gli uomini che di solito, come partivano per le crociate, partivano per questi mercanteggiamenti. Però... Sì, è un po' in là, sì, ho capito. Sì, perché adesso sono, mi non parla... sono così. Però che cosa succede? È una professione anche usurante, se vogliamo. Perché si fanno tantissimi chilometri in macchina, certo. Parliamo di... Ma noi parleremo infatti di stress e di usura. Stress anche da tanta circolazione appunto. Il professor Pagani è un grande esperto e parleremo anche, l'abbiamo colto dalla tua risposta, di sedentarietà. Perché Davide ci ha detto lo portiamo davanti alla scrivania oppure scendiamo giù al bar e se no vi spostate in macchina. Vi spostate molto ma siete anche molto fermi. Sì, assolutamente sì, anche perché lo spostamento in macchina purtroppo non è un reale movimento, anzi, come il professore potrà spiegare molto meglio, è un qualcosa di statico che fa anche addirittura male. Quando uno scende dalla macchina di solito tende a sgranchirsi le gambe dopo che ha fatto molti chilometri. Poi dipende anche dalla tipologia della zona dove si lavora. Certo. Ci sono agenti di commercio magari nelle metropoli importanti, magari un agente di commercio a Milano, un agente a Roma, magari fa la città per vendere i prodotti. Agenti di commercio invece in città, magari in centri più piccoli, fanno tutta la regione. Ci sono agenti di commercio che magari coprono tutta Italia, quindi comunque dipende molto dalle... Professor Pagani, la sedentarietà è uscita da qualche settimana una ricerca che ha sottolineato i rischi della sedentarietà, è quasi un fattore di rischio al pari di ipertensione, colesterolo, vero? Non è quasi. Di più. Quasi più importante. Quasi più importante. Se volete fare qualche saltellino adesso davanti a noi, così, per non sgranchirvi un po' le gambe, non ci scandalizzeremo. E ne sappiamo ancora non abbastanza. Quindi le ricerche sono non solo benvenute, ma importantissime. Allora, voglio spezzare una lancia a favore dell'ottimismo. Bene. Citando una ricerca che ho visto stamattina, richiamata dal New York Times, su un fatto, secondo me, praticamente molto importante. Le conseguenze negative della sedentarietà, soprattutto sugli effetti dell'alimentazione e sul metabolismo, la tendenza a sviluppare il diabete e l'obesità, per intenderci, entrano in un rapporto bilancia con l'attività fisica. Per cui basta fare un po' di attività a sufficiente, che è quelle tre quarti d'ora al giorno, più o meno tutti i giorni, poi hai tutti i giorni del pensiero, che diventano 3, 4, 5 alla settimana, perché gli effetti negativi della sedentarietà, soprattutto sul metabolismo, siano drasticamente ridotti. Per cui uno può continuare a essere sedentario nella sua attività, ma introducendo il più possibile di movimento. Una cosa banale: se la stampante su cui vengono stampate o le lettere di dimissione se è un medico, o i contratti se è un agente, beh, mettiamola a 2 metri di distanza dalla sedia, per cui ogni volta che si prende un foglio ci si alza, si prende il foglio e si torna indietro. Questo sembra banale, sembra un'attività fisica irrilevante, ma il nostro organismo la percepisce positivamente. Benissimo. Ce l'ha venduta bene. Esatto, no, è stato convincente. Davide. Diciamo che io mi ero preoccupato, perché quando ho sentito dire lettere di dimissione mi sono preoccupato. Quindi come le visioni generano questi comportamenti? Per un medico cosa una lettera di dimissioni, per noi che lavoriamo non tantissimo magari. Ma quindi l'ottimismo, mi spiace di essere stato distratto dalla mia abitudine, ma la lettera di dimissione è esattamente come l'ha interpretata Davide, il foglio che accompagna l'uscita dall'ospedale e si spera guariti. Allora, abbiamo gli ascoltatori, peraltro, ecco qua, abbiamo ripristinato la nostra connessione internet, però visto che abbiamo citato prima le donne, ci siamo un po' lamentate del fatto che queste donne non fanno questa professione, invece subito Ilia da Roma all'800240024 ha voluto dire grande, la sua. Grande, vai. Ilia, buongiorno, ci senti? Buongiorno ragazze, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori che ascoltano una radio intelligente. Grazie per le ragazze, soprattutto. Che siamo, peraltro. Ascolti, allora, io ho avuto un'esperienza nel mondo della telefonia mobile e ho lavorato per mesi a Milano. Ho avuto un'esperienza molto bella, devo dire, interessante sotto tutti gli aspetti, ma una cosa mi sono poi resa conto che quando si entra negli uffici o comunque si parla con un amministratore delegato, o chiunque sia, nel campo del lavoro c'è di tutto, bisogna avere una certa, professionalità. La stretta di mano, ma deve avere, sì, è vero, una stretta di mano decisa, ma lo sguardo è importante, lo sguardo diretto, uno sguardo fisso, che non deve far avvertire la nostra, anche se c'è in noi la nostra emozione, la nostra paura, che non si sa mai chi ha davanti. Questa è una delle cose che l'impatto è importante, l'abbigliamento serio e composto, non scollato per le donne, serio, un abbigliamento moderno ma serio. Ci siamo subito guardate, Eliano. Sì? La compostezza fisica, non si deve mai mettere seduto nessuno se non viene detto, si segga. Io non mi permettevo mai di poggiare la borsa intera, rimanevo dritta. Quindi il galateo della gente di commercio, Ilia, mi sembra un ottimo. Grazie, agente Ilia. Di commercio, ti faccio i complimenti. È stata molto apprezzata, spesso... ma ha interrotto adesso la sua professione? Avere comunque un'infarinatura in tutto quello che è il momento economico, la politica, perché c'è sempre l'espressione dell'imprenditore che vorrà consensi sul suo punto di vista. C'ho un mal di schiena che non mi fa dormire, da ieri sera ce l'ho, voglio morire. Eccoci qua, riprendiamo allora la nostra trasmissione. Vasco Rossi ci introduce al tema che affronteremo poi nel corso della puntata, naturalmente, perché fare questo mestiere, quello dell'agente di commercio, comporta anche qualche acciacco, ne parleremo. Possiamo vedere tra i nostri amici che ci sono. C'è qualcuno che ha il mal di schiena? Mal di schiena con... Nessuno? Beh, eccolo là, giù, vedi, in fondo, ci sono già delle basta mani che alzate, alza la mano uno, poi tutti dietro seguono. C'è un agente di commercio che sventola anche la marina, vuol ma secondo dire che voi ha è provocato doppio. Appunto da questo mestiere, dal fatto di stare tante ore in auto, quindi è questo un po' che provoca. 800240024, voi invece che siete qua in studio non dovete fare altro che alzare una mano per intervenire in diretta. Esatto, faremo poi un esame alla vostra schiena più tardi con un esperto, con un professionista appunto di questo campo, ma a proposito di esami, io so Davide Ricci che lo dovete fare anche voi per diventare agente di commercio. Sì, non in tutti i casi, ma assolutamente sì. In quali casi? Allora, per poter essere agente di commercio è necessario appunto superare un esame se si è fatto degli studi di tipo classico, per capire. Mentre in altri, quando ci sono delle scuole... Una laurea in economia non è necessario. Esattamente, non è necessario, come ragioneria, piuttosto che tutta un'altra serie di codici, sono molti, per cui se si ha un'infarinatura di tipo commerciale, se vogliamo, quindi ragionieristica, si può accedere alla professione di agente di commercio senza fare gli esami. Diversamente, per poter aprire la partita IVA come agente di commercio, quindi con quella tipologia di codice, sì, è necessario avere appunto questo requisito di aver fatto un esame. Addirittura, per esempio, chi è stato dipendente di un'azienda con un contratto commerciale e si è occupato di lavoro commerciale con un secondo livello del commercio, addirittura anche un dipendente può diventare agente di commercio purché abbia delle caratteristiche. Sono proprio delle, certo, diciamo, le posso chiederle in che settore lo fa? Io personalmente? Oppure fa solamente il guardi, socio fondatore di agenti.it? Io lo faccio sempre a casa con mia moglie, io sono sempre agente di commercio. Come sguscia? No, dalla mano in maniera confortante, allora, però sguscia. Mio papà agente di commercio, mia mamma agente di commercio, mio fratello agente di commercio. DNA. Mia moglie? Mia moglie lo sopporta, un negozio, quando torna con un negozio commerciante, quindi aveva a che fare con agenti di commercio. Insomma, professor Pagani, però gli esami non finiscono mai. Vero. Questo ci dice anche il nostro agente di commercio. Il confronto ogni la giorno. Vita è un esame. La vita è un esame, talvolta siamo un pochino più stanchi, la nostra autostima vacilla, ci sentiamo troppo sotto esame e lo stress. È vero, lo stress c'è, ce l'hanno tutti e sempre. Allora, mentre lo si può guardare come una specie di montagna negativa, lo si può anche guardare come una misura continua dell'impegno e dell'energia che ci serve per raggiungere i nostri risultati. E a questo punto, per evitare di essere sconfitti dall'avversario stress, lo si può far diventare un competitore, uno strumento di misura, e quindi che ci aiuti a saper bilanciare le attività positive che ci danno l'energia per gestire lo stress invece che combatterlo. Un po' come le onde grandissime e i surfisti che sembrano veramente degli dei dell'Olimpo, che riescono a cavalcare queste onde gigantesche. Sono agenti di commercio, sono agenti di muscoli, anche il surfista, mercoledì muscoli da leoni. 800 24 00 24, mi piace perché il professor, sì, Pagani vede sempre il bicchiere mezzo pieno, che è quello, certo, che dobbiamo fare noi quando vogliamo investire in prevenzione. Allora, eccolo qua, guarda che bel ragazzo. Chi è? Abbiamo un'incursione, adesso dovremo cercare in qualche maniera anche di raccontarla a chi non ci vede. Abbiamo un supereroe che ci sta gravitando intorno. Salve. Agente di commercio? Ex agente, ma adesso agente di tutti gli agenti. Eccolo qua, insomma, abbiamo Mister Agenti.it, un supereroe, quindi capitan, vi siete voluti... precisiamo perché poi ogni... Capitan Agenti.it, a vostro servizio, a servizio di tutti gli agenti che sono qui alla fiera di... Allora, Milano. Facciamo una cosa, Mister Agenti.it, vediamo se può fare qualcosa per Domenico da Caserta. Capitan. Niente, sono un po' dura. No, è capitano, ma... Capitano, sentiamo se può fare qualcosa per Domenico dalla provincia di Caserta. Mettiamola alla prova. Che ritiene che questo sia un lavoro bello quanto volete, interessante quanto volete, ma comunque gli dà anche questa definizione, è usurante. Domenico, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per la verità, che questa opportunità che noi abbiamo, che noi abbiamo per rispondere. Dunque, sì, niente, io volevo dire semplicemente che adesso hanno spostato la pensione a 67 anni, ma un agente di commercio a 67 anni deve continuare a fare 50.000 km l'anno, come fa? Sentiamo un po' se la categoria si è posta questo problema. Le difficoltà che ci sono in tutti i lavori. Questo è sicuramente un lavoro usurante. Grazie. Certo, ne stiamo parlando, ma... No, pensa un po' a me e te che faremo ancora cuore denari a 80 anni. Però, secondo per me fortuna ci cacciano prima. Esatto. Allora, e andremo a lavorare da agenti.it. La categoria si pone questo problema, ad un certo punto non si è più in grado ovviamente di sostenere un determinato ritmo di lavoro e quindi... La pensione anticipata c'è per la vostra categoria, cioè per i camionisti, per i lavori usuranti sono altri, diciamo, nella definizione della previdenza. Esatto, la problematica è questa, che naturalmente ci sono delle leggi che regolamentano tutto un discorso di lavori usuranti e ci sono, io non ne sono naturalmente a conoscenza, non sono la persona giusta per rispondere. Ma noi abbiamo il professor Pagani. Abbiamo il professore, però è chiaro che... ci sono i camionisti, ci sono i tassisti, cioè sono usuranti. No, ma voi fino a quanto riuscite a sostenere un ritmo di lavoro di questo tipo? Quindi... Beh, questo è un problema che abbiamo individuale, perché ci sono degli agenti di commercio che magari in alcune zone vanno a lavoro anche a piedi, in alcune città per esempio. La maggior parte va in automobile, come dicevo prima, nelle grandi città questo lavoro in automobile si fa per pochi chilometri, nelle altre si fa per tanti. Quello che bisogna cercare di fare molto spesso è cercare di abituarsi al cambiare anche il proprio modo di lavorare. È chiaro che un agente di commercio che inizia a fare agente di commercio, che ha 20 anni, che è un'energia, certo, un entusiasmo diverso, avrà un entusiasmo, insomma, diverso si deve rispetto essere un po' flessibili, come in tutti i lavori sicuramente, riprendiamo, insomma, un po', no? Seguire l'onda, tra l'altro noi abbiamo anche, insomma, l'Enasarco, che è un ente previdenziale accessorio che è stato fatto proprio per questo, perché noi abbiamo sia dei contributi INPS come agenti di commercio che contributi poi appunto Enasarco. È più difficile con la crisi guadagnare la salute del cliente, o anche, lo chiedo agli ascoltatori che ci stanno seguendo da casa e che non fanno gli agenti di commercio, è più difficile intrecciare delle relazioni che si basano proprio sulla fiducia? Allora, movimentando il 70% del PIL, come dicevamo, sicuramente gli agenti di commercio sono lo specchio di come va il discorso. La crisi sicuramente dà dei problemi anche nelle relazioni, perché un'azienda che in quel momento magari è sul rischio di fallimento, che io vado a visitare perché devo vendere i miei prodotti e mi accorgo che quell'azienda magari non riesce a pagare le fatture, è chiaro che se io vado lì posso portarlo al bar quanto vogliamo, però comunque lui ha sensibilmente un problema. L'agente di commercio però in quel modo, il professionista, cerca di intervenire e a volte aiuta anche il cliente a trovare la soluzione, perché un agente di commercio ha l'opportunità di offrire diverse, cioè è proprio un vero e proprio consulente del cliente. A volte bisogna saper dire al cliente che non è il caso di comprare, ma ci sarà un'opportunità magari differente e migliore. Anzi, forse nei momenti di crisi, come succede anche in famiglia, a volte i legami si rafforzano. Insomma, professor Pagani, ci sono delle parole, dei gesti, uno sguardo che sono capaci di metterci subito in relazione con l'altro, di superare magari una certa difficoltà, di superare l'imbarazzo, di entrare in relazione. In questo voi anche come medici siete agenti di commercio, proprio perché dovete entrare in sintonia e far nascere quel feeling. In sintonia con i canali di comunicazione che si possono instaurare immediatamente. Ebbene, diceva il nostro Davide che bisogna saper capire cosa dire ai nostri clienti, al nostro partner, perché nella relazione l'altro è un partner, qualunque sia la relazione. Nel caso specifico dello stress di cui si parlava prima, che viene sempre visto o quasi sempre negativamente, l'agente di commercio sa che il suo è un lavoro stressante, sa quindi che deve avere molta energia, una specie di gruzzolo di partenza per poter partire ad essere 20 anni, sentivo dire prima, pieno di energia, e di questa energia farsi carico, ma non può immaginare che la può spendere e non ricostituirla mai. La domanda che io giro al pubblico è: ma siete consapevoli di questo fatto, che bisogna anche investire in salute per poter essere pieni di energie e poter lavorare bene? Io vi conosco, siete tutti ladri. Ogni volta che aprite bocca aumentate il prezzo. Sì, è vero. Sono io che devo parlare. Io le dico cosa voglio e cosa sono disposto a pagare. Lei ha seguito il mio ragionamento? Come no? Le va pennello, eh? Come te la senti, cara? Ah, me la sento bene. Ah, è sciocchissimo. Altro che? Tagliata su misura. Ed eccoci tornati insieme, siamo al Forum Agenti a Fiera Milano, trasmettiamo da qui la prima trasmissione delle dirette di Radio 24, che ci saranno sia oggi che domani. Andate sul sito. Ci hanno voluto con tutte le loro forze. Hanno fatto bene, perché siamo le migliori. È giusto, Dario, bisogna dire, ma la gente di commercio, Davide. Non dovrebbe dire così. Ho sbagliato, cosa dovevo dire? Hai detto benissimo, l'agente di commercio deve dire la verità, ed un professionista dice sempre la verità. Questo anche è importante. Se si allarga un po'. Vabbè, no, dai. Ma perché è una questione di autostima. Dai, questo mi piace. 800 24 00 24, vorrei ricordare e sottolineare, adesso arriviamo al pubblico, una domanda chiave che ci ha fatto il nostro professor Pagani, e cioè: che cosa fate per mantenere il vostro gruzzolo di energia, la vostra salute? Lo stiamo spendendo, ma dobbiamo continuare ad investire. Questo è un tema che piace molto alla nostra donna di denari. Sì. Ah. Gli investimenti. Ah. Andiamo al nostro pubblico. Eccoci qua, infatti. Abbiamo questa bellissima signora qui davanti a noi che ci vuole raccontare che investimento in salute fa per fare al meglio la propria professione. Esattamente. Io sono un agente di commercio da sempre entusiasta di esserlo e posso dire che il miglior sistema per evitare o per superare lo stress è la gratificazione che noi abbiamo nel momento in cui ogni giorno portiamo a casa degli ordini. Pertanto, poiché noi visitiamo molte persone o siamo in contatto con molte persone, questa gratificazione alla fine della giornata arriva sempre e questo ci permette di andare avanti non solo fino ai 60, 65, 67 o direi ancora di più anni, ma ci permette di andare avanti a vita. A questo proposito volevo aggiungere un'altra cosa e è quella dell'agente di commercio in presenza della crisi. Io vorrei dire che abbiamo una enorme funzione in periodi di crisi noi agenti di commercio e questo perché noi siamo una risorsa. Oggi che tutte le aziende mirano a risparmiare, noi forniamo tutta una serie di servizi prima di concludere l'ordine che sono ricerca, marketing, eccetera, eccetera. Tutti gratis e pertanto la nostra professione non si esaurisce evidentemente solo nella vendita. No, è una cosa veramente importante. Senta, io non è colpa mia, ma mi sta spingendo lui a farlo, ma mi ha chiesto di farle una domanda, Davide Ricci. Io vorrei poter raccontare quanto è carina questa signora ai nostri ascoltatori che non possono vederla. Mi sta chiedendo di chiederle quanti anni ha. Ma che gentile, Davide, ti ringrazio. Comunque sul mio curriculum è preciso, eccetera, io compirò l'anno prossimo, l'anno che sta per venire, 74 anni e onestamente me ne sento come agente di commercio molto meno. Dobbiamo fare... Non ho stress. Noi possiamo andare a casa. Non ho malattia. Io me ne vado. No, ma professor Pagani, scusi, ma professor Pagani... è ammutolito anche lui. Il professore dice se sono tutte così vado a casa a fare la gente. No, io andiamo a fare la gente di commercio. No, la interrompo. Devono essere tutti così. Bravo. Perché questo è il normale, l'orgoglio è la fisiologia normale, mi perdoni il termine, cioè dell'invecchiamento, ma è quello che è esattamente questo, è un invecchiamento di successo. Bisogna sentirsi che lo stress non c'è, avere è una e parola. Non sentirli. Avere anni e non sentirli e non farli neanche vedere perché non si vedono neanche. È una gratificazione importante. Io volevo chiedere a Debora se vogliamo sentire anche i nostri amici che ci stanno chiamando da casa. Li ringraziamo. Ci sono Gino, Alfio, Luisa e Clotilde, quindi anche donne visto che l'abbiamo pescate. Ma la cosa più interessante da dire adesso è quella che ha Alfio da Reggio Emilia. Qual è la parola più importante da dire col cliente, Alfio? Sì, salve, buongiorno, complimenti intanto per la trasmissione eccezionale. No, quello che dicevo delle regole molto importanti sono intanto quello di non dire mai il fatto di hai capito. Secondo me questa è una cosa che magari il cliente si potrebbe offendere. Bravo, hai capito? Oggi... ci si offende un po' tutti quando ti dicono oppure non hai capito. E quindi Alfio, lei come supera questa problematica? Perché ce l'ha un'indicazione anche, da dare. Anche io adesso adesso non voglio fare il professore perché anche io sbagliavo, per questo me ne sono accorto. E poi un'altra cosa, non dire mai al cliente quando si arriva la mattina o quello che è, mai dire come va. Perché secondo me automaticamente si cade nella fossa del dolore, perché tutti poi dicono ma come va, non vedi com'è la situazione in generale. Quindi magari e quindi l'approccio del mattino qual è, Alfio? Quello l'approccio corretto? Del mattino magari con iniziare con una testata di un giornale o commentare se il cliente magari piace lo sport o piace un po' la cultura o piace qualche altra cosa, magari intervenire un complimento anche al cliente o al suo magazzino o però alla questo si può fare, Alfio, nel momento in cui magari un cliente lo si conosce da tempo, ma se ne si vuole conquistare uno nuovo? Se si vuole conquistare uno nuovo praticamente bisogna avere il bagagliaio di quello del materiale che uno ha, quindi praticamente in base a quello che ha lo conquisti con la qualità, con un assortimento e con sapere. Con la qualità. Però Alfio ha detto una cosa, professor Pagani. Grazie Alfio. Grazie, che anche le ricerche dimostrano, e cioè che trasmettere l'immagine positiva, vedere il bicchiere mezzo pieno, rimandare a dei concetti ricaricanti, aiuta molto e stabilisce con l'interlocutore subito un feeling, cioè parlare delle cose negative non va bene come primo approccio, è anche un po' il modo di porsi, sono i famosi neuroni a specchio che dicono la loro. Stavo esattamente pensando ai neuroni a specchio, che sono uno dei grandi risultati. Io invece non ci stavo pensando, li devo confessare. Ma io tornerei prima ancora prima, subito dopo la guerra, c'era un fisiologo italiano famosissimo, il professor Moruzzi, che i fisiologi conoscono, sì, di Pisa. Anche Deborah e io, facciamo così. Il quale dava grande importanza all'emozione. Ora, la signora prima ha sottolineato quello che io potrei chiamare come setting emotivo positivo. Sì. Il setting emotivo positivo o negativo attiva dei circuiti cerebrali differenti. La ricerca moderna sta dando delle risultanze incredibili sull'importanza del setting centrale e come uno, sentendosi bene, finisca per stare bene. Se uno si dice che sta male, poi sta male, perché cambia i meccanismi fisiologici e hanno a che fare con l'invecchiamento. Ora, l'invecchiamento, noi diciamo che 65 anni è tanto, ma era tanto all'epoca di Bismarck. Adesso forse tanto diventa gli 85 anni e quando ne avremo 84, esatto, diremo tanto. Per noi che siamo nel pieno dell'adolescenza, 105. Allora diventa importante riuscire a misurare l'età, ma non l'età anagrafica, l'età biologica. Questo vale negli adolescenti, i quali stanno diventando adesso per sempre adolescenti, alla Peter Pan, vale per le persone adulte, per le quali l'età della vecchiaia è oltre i 75, oltre gli 80. Diciamo così. Adesso Allora, adesso io sono un po' indecisa, perché Luisa da Roma e Clotilde da Vicenza hanno due domande molto belle, ma il povero Gino da Bologna aspetta praticamente da 45 minuti. Dai. Quindi io direi di sentire lui, che ci racconta la sua esperienza trentennale da agente di commercio. Poi chiedo a Marco a Milano di mettere in pausa per appunto 10 minuti Luisa e Clotilde, le ripeschiamo nella seconda parte del programma, ma subito andiamo a Gino. Gino, buongiorno. Sì, telegrafico, abbiamo un minuto. Ah, anche meno, no, mi sono dovuto fermare perché si è scaricato. Saluto tutti innanzitutto. L'importante è che non sia scarico lei, Gino. No, no, ci mancherebbe altro. Guarda, allora siamo fortunati. E quasi 42 che lavoro e non ho finito. Stavo guardando la macchina mentre parlavate. C'ho la macchina da poco più di 2 mesi, un utilitario, non più come prima. E c'ho più di 15.000 chilometri, ovviamente sono in viaggio. Il dottore forse può dirvi che oltre al mal di schiena ci può essere anche qualche problema un po' più in giù, che difficilmente l'agente di commercio può risolvere a breve. È una battuta, spero venga presa nel senso giusto. Esatto, e non avevamo neanche preso in considerazione che potesse venire fuori questo aspetto, ma c'è. Noi abbiamo il professor Pagani, siamo assolutamente Gino, tranquilli. Grazie, vada piano, si fermi, prenda un caffè, naturalmente finisca di ascoltarci. È un elemento che può essere affrontato dal medico soltanto in presenza, purtroppo non può essere affrontato. Non possiamo diagnosticare qualcosa. Ricci vuole aggiungere qualcosa su questo problema dell'agente di commercio aggiuntivo a tutti quelli che ha già e che lo stressa molto? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Cuore e denari. Siamo ritornati qui, siamo alla fiera di Milano City, al Forum Agenti. I nostri agenti che sono venuti a trovarci ad ascoltare in diretta la trasmissione si sono sgranchiti un po' le gambe, anche Davide Ricci si è alzato durante il nostro GR. Hai stretto le mani a tutti. Hai fatto un piccolo percorso, hai seguito alla lettera quello che ha detto il professor Pagani. Sì, assolutamente, anche perché comunque per andare dai clienti bisogna andare in macchina, quindi bisogna abbinarlo a qualcosa, magari ci si ferma, ci si sgranchisce ogni ora magari e poi si riparte. Professor Pagani è bravo, sa anche questo, ogni ora non ha la stampante vicina ma è andato a fare un giretto come hanno fatto un po' i nostri agenti che sono qua tra il nostro pubblico. Sa anche, non l'ha detto, che sgranchirsi le gambe libera anche la mente. Il torpore che viene dopo molto tempo che si è seduti viene in un qualche modo sbloccato da un breve movimento, una breve passeggiata, se al fresco ancora meglio. 800 24 00 24, abbiamo tante telefonate. Vincenzo, Antonio, Clotilde, ma è tempo anche di parlare della nostra schiena, ne parleremo tra poco. State ascoltando un programma offerto da Natura, nutrizione scientifica, essere e benessere. L'avevamo promesso, volevamo fare un tagliando alla nostra schiena, alla schiena degli agenti di commercio che passano molte ore seduti in macchina, e alla schiena di chi, come noi, pur non essendo in macchina, sta ore e ore alla scrivania, ma non sono solo gli agenti di commercio naturalmente che guidano tante ore, la schiena si lamenta, ma noi la cerchiamo di in qualche modo coccolare un po' con i consigli del professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale. vertebrale. Buongiorno professore. Buongiorno. Ma buongiorno a voi Nicoletta e Debora e a tutti gli altri ospiti. Che entusiasmo, ci coccola la schiena di tutti. Bene. Professor Di Pietro, la schiena non ama la sedentarietà. Abbiamo bisogno subito di un consiglio. Abbiamo dei muscoli che devono muoversi. Abbiamo bisogno di un consiglio molto pratico, un paio li abbiamo già dati, sgranchirsi, fare un po' di movimento, per chi si sente la schiena un po' bloccata, appesantita dalla sedentarietà. Che si fa? Sedentarietà, tra l'altro aggiungerei soprattutto per gli agenti di commercio che si dà poco peso invece proprio alla zona cervicale. La zona cervicale per chi guida tanto è la prima, è la più silente come dolore, ma è la prima che dovremmo curare. Per curare bene tutta la schiena. Stare seduti in macchina dà dei grossi problemi perché noi siamo in torsione continua, guardiamo a destra, guardiamo a sinistra, guardiamo in fondo. Quindi il primo consiglio da dare è passate sempre dall'oculista e fatevi controllare. Il medico oculista saprà darvi dei consigli se ci sono delle piccole esoforie, cioè non la messa a fuoco non tanto precisa. Questo è importantissimo per la salute della nostra colonna vertebrale. Dall'alto. E se mi permettete anche un consiglio invece dal basso, dove appoggiamo come posso dire, dove appoggiamo. Ha sentito la prima parte del programma, sì. Professore, perché un ascoltatore che appunto fa questo lavoro ha posto anche questo problema. Sì. Le zone basse impronunciabili, chiamiamole un po' così. È vero. Sì, possono dare problemi, lo sentiamo quando siamo seduti molto, perché sentiamo delle scossettine, come dei formicoli in quella zona. Vuol dire che qualche nervo è poco ossigenato, i muscoli non tengono bene. Sì. E ricordatevi quanto giustamente è stato detto prima del riposarsi, dello sgranchire le gambe. Non fatelo quando siete stanchi, è troppo tardi. Sempre un attimo prima, quando ancora non siete stanchi. Prevenire è meglio che curare. Ecco, un'altra cosa che appunto vorrei dire, soprattutto per gli agenti di commercio, che poi poveri per la loro cervicale, nelle loro mimiche facciali per stare con i clienti, soffrono un po', appoggiando il nostro sedere, e diciamolo, sul sedile, dovremmo avere l'accortezza di utilizzare quei salvagenti, chiamiamoli così, quei cuscini a ciambella, che vengono utilizzati dopo le operazioni di emorroidi o dopo il parto. Se noi usassimo quello ben coperto sotto il sedile in modo da non farlo vedere, almeno dimezziamo il nostro mal di schiena e la nostra stanchezza muscolare mentre guidiamo. Il dottor Di Pietro come ci si è Mamma preparato mia. Con queste ricette proprio su misura? Allora, per gli questo ha subito acceso la curiosità di Davide Ricci. Io penso, perché hai detto? Sì, beh, io ho avuto problemi, quindi l'ho usato, lo conosco molto bene, essendo agente di commercio, ma questo ha sicuramente l'intervento del professore stimolato e fatto felici tutti gli agenti di commercio che rappresentano le case che producono questi prodotti, perché così guadagneranno più provvigioni dopo questo annuncio del professore. Che condivide. Professor Di Pietro, c'è anche un'iniziativa molto interessante che da dicembre parte, che salva un po' le schiene degli agenti di commercio e non solo. Sì, c'è il progetto Schiena in Salute, grazie alla sensibilità della Sapienza di Roma, dell'Università di Roma, ha lanciato questo progetto in cui a dicembre, per una settimana, la prima settimana di dicembre, gratuitamente chiunque nei centri che troverà in un numero verde o nel sito che è www.schienainsalute.it, numero verde 800-926-213, gratuitamente si farà uno screening con una macchina rivoluzionaria per la nostra postura, la rilevazione della nostra postura, che è la spinometria, in cui si vedrà molto bene la colonna vertebrale in 3D senza radiazioni, quindi possono fare i bambini, le donne in gravidanza. Sapere come sta la nostra schiena e quindi assolutamente. Professore, grazie buona mille. Giornata. Buona Ma giornata. Grazie a voi e buona schiena in salute a voi. Buona schiena a tutti. Ah, ottimo. Andiamo. Allora, ritorniamo un po' alle questioni professionali, no? Che riguardano l'agente di commercio. Io riprenderei, perché l'abbiamo appunto rinviata a questa parte del programma, Clotilde da Vicenza. Clotilde, buongiorno. Peraltro ci tiene a raccontare che proprio domani Ricci, Clotilde, viene in fiera a cercare un po' di informazioni. Clotilde, buongiorno. Buongiorno, sono Pedacine Alberta da Vicenza. Io sono agente di commercio della sanità da 20 anni. Mm-hmm. E ho 58 anni, sì. Li compierò anche a breve. Auguri. chiedere, grazie, volevo chiedere al professor Pagani un consiglio. Ah. Da poco, da giorni, mi sono laureata alla facoltà di medicina e chirurgia a Tor Vergata, Roma, e quindi mi sono presa qualche mese un pochettino di stacco dalla mia amata attività. Qualche mese sabbatico, sì. Chiamiamolo un po' così. Venga la domanda. Devo rientrare e ripresentarmi, fra l'altro con nuove aziende, agli interlocutori soliti, alle persone che da anni frequento, e volevo un consiglio, una parola chiave, per non essere, diciamo così, un pochettino o presuntuosa, dire il perché, oppure non lo so, vorrei del professore un consiglio. Sì. Allora, lo chiediamo forse a Davide Ricci, Clotilde, perché allora, voleva. Vabbè, però possiamo diamo due suggerimenti. Una parola chiave ha chiesto. Più che un consiglio, parto con una domanda, perché chiunque si laurea in medicina deve decidere se è un'esperienza culturale e arricchente o se invece un'attività professionale, che sono veramente due ambiti completamente diversi. E lei può viverli entrambi, sia quello professionale, nel qual caso ha un doppio lavoro, oppure quello culturale. Nella mia famiglia, molti anni fa, c'era un mio parente, attualmente mancato da tempo, che si era laureato in medicina, ma non ha mai fatto il medico, tutti lo sapevano, era noto per essere laureato in medicina, era colto, ma non ha mai lavorato come medico, ha fatto un altro mestiere, e sono tanti medici che fanno altri mestieri, anche recentemente, per cui mi lasci i complimenti per quello che ha fatto. Certo, magari può aspettare che sia il cliente che faccia la domanda. Come mai non ti vedo da così tanti mesi? Allora a domanda uno risponde, Davide Ricci, altrimenti... Sì, allora, io perché chi domanda conduce, ci scrive Sabrina dal nostro centralino. Guida, che salutiamo, la nostra preziosa Sabrina. È verissimo, le domande sono una cosa importantissima. No, io a questo punto farei una domanda a Clotilde, cioè c'è qualche motivo specifico per cui lei non vorrebbe parlare di questa esperienza con questi clienti che lei ha, tra virgolette, accantonato per un certo periodo? Cioè, lei non vuole dirla questa cosa o vorrebbe dirla? Insomma, Clotilde ce lo deve far sapere, perché Davide, voi siete anche un po' psicologi, allora io vorrei chiederti, che avete un po' l'occhio lungo, quando è che voi capite che avete, lasciamelo mettere tra virgolette, in pugno il cliente, che l'avete conquistato, siete entrati in sintonia, insomma che l'ordine ve lo fa e che l'affare è fatto? Per il discorso che appunto ci fa l'ordine, una cosa, un segnale importante che poi il professore ci insegna che ci sono segni e sintomi, no? Tra l'altro uno dei segni che si vede quando il cliente incomincia a parlare di qualcosa che succederà dopo l'ordine, nel senso che se ti fa una domanda sulla consegna, quindi tu stai ancora facendo un'offerta, gli hai parlato del prezzo, delle condizioni e tutto, se lui incomincia a dire ma poi quando riceverò la merce, ad esempio, che cosa succederà? A quel punto l'agente di commercio professionista può solo perderlo quell'ordine, perché magari sbaglia e non reagisce alla giusta parola, e quindi perché lui in quel momento il cliente ha già comprato, perché sta pensando al dopo. C'era qualche domanda, adesso ogni tanto abbiamo internet che va e viene questa mattina, di qualche imprenditore che cerca agenti di commercio. Come si fa? Adesso non andiamo sul banale, andiamo su agenti.it, perché meno male che l'hai detto, perché è lui che te l'ha portato. Però adesso, a parte la domanda e l'offerta, insomma, dove si incontrano? Solamente su internet oppure c'è anche qualche modalità oltre alla fiera? Certo, diciamo che il concetto è che gli agenti di commercio sono ovunque, quindi banalmente si potrebbe anche andare, se l'imprenditore dipende dal suo settore, potrebbe andare dai clienti che sicuramente lui seguirà già, perché se non ha agenti di commercio ma un imprenditore, quindi produce e vende, già avrà dei clienti che sono magari per lui importanti. Lo stesso cliente viene visitato da agenti di commercio, quindi se non vuole mettere un annuncio su agenti.it, se non vuole venire al forum agenti per incontrare migliaia di agenti di commercio, ma vuole sostanzialmente fare un qualcosa fatto in casa, io se fossi lui andrei da uno dei miei migliori clienti e gli direi: caro cliente, siccome mi voglio espandere, tu hai qualche nome di qualche agente di commercio serio che già conosci? Perché anche per voi la reputazione direi che è fondamentale. Quindi l'agente di commercio, la reputazione è il suo pane quotidiano, cioè sfatiamo il mito dell'agente di commercio che racconta le barzellette, che paga solo dei caffè, che prende 70 caffè. L'agente di commercio è un professionista che serve per fare l'interesse del cliente, dell'azienda e il suo, cioè il cerchio si deve. Se uno di questi tre attori non ha nessun tipo di interesse o perde in quella cosa, il matrimonio non si può fare. C'è Antonio dalla provincia di Milano che sta vivendo questa professione in un momento particolarmente stressante. Credo che per il professor Pagani appunto sia interessante sentire questa testimonianza. Antonio, c'è ancora? Sì, ci sono. Eccoci. Eccola, qua, ci racconti. Sì, ci sono. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Sì, sì. Posso parlare? Sì, certamente, in diretta. Siamo a sua totale disposizione. Andiamo. Sì. Sì, pronto. Allora, volevo dire, buongiorno, mi chiamo Antonio Benavoli, sono un agente di commercio da oltre 30 anni e sono ancora contento di esserlo, è un lavoro che mi piace e lo faccio volentieri. Però devo dire che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, cioè praticamente mi è diventato quasi impossibile farlo con naturalezza, tranquillità e con l'impegno che richiede l'attività. Perché? Ed il mio problema può sembrare banale, può sembrare stupido, ma oppure cioè, non so come verrà valutato, ma io cioè, nel fiorire di tutta questa sicurezza stradale, queste cose, io devo dire sono ligissimo, non ho mai fatto un incidente, non ho mai fatto niente, guardo la strada come un modo, un posto dove andare a lavorare, tutte queste cose, però sinceramente non ce la faccio più, io sono oberato, al mattino esco stressatissimo, cioè per dire, perché c'è un fiorire di autovelox dappertutto che sono giusti quando servono. Quindi questa la mette sotto pressione. Grazie Antonio. Grazie. Il professor Pagani diceva bisogna continuare ad investire, perché noi abbiamo una riserva di energia a cui facciamo, no? Da quello che capisco questo signore è al di là della riserva. Sì. E quindi alla lampeggiante rosso. La situazione più semplice è mettere un attimo di sosta e usare la sosta per capire la situazione, magari facendosi aiutare. Ovviamente per radio si può fare poco, se no sottolineare quanto ciò che ci dice è importante. Quello che lui percepisce, Davide prima diceva segni e sintomi, è un sintomo cruciale, importantissimo, di avere raggiunto una fase oltre la quale è necessario farsi aiutare. Probabilmente la domanda da fargli è come mai non si è ancora fatto aiutare. Beh, io una voce la spingo in questo senso, di trovare la forza di parlare inizialmente col suo medico, che sicuramente lo conosce da molti anni e con cui può avere maggiore dimestichezza e può più facilmente toccare argomenti anche delicati. Ma magari anche nell'ambito del lavoro, Davide Ricci, si può riorganizzare in qualche maniera questa persona? Perché voi siete dei liberi professionisti, ma avete anche delle agenzie, esistono, non lo so, funzioni amministrative con le quali magari lui può calmarsi per sei mesi, sì, e ripartire. Allora, per parlare appunto di Antonio, del problema che aveva, che si è posto, che avete ascoltato, a volte bisognerebbe cercare prima di tutto di cambiare le visioni, cioè se lui vive l'autovelox, come ha detto, come un problema per cui io sono stressato perché ci sono tanti autovelox, basterebbe un attimo cambiare il punto di vista e dire ci sono tanti autovelox, ci sono meno incidenti, quindi andiamo tutti piano, ci sono meno incidenti, io non faccio coda e non incontro traffico. Come sottolineava il professor Pagani, nel momento in cui tu vedi questo come un problema e lo sovravaluti, questo è molto difficile. Vuol dire che qualcosa in te ti segnala che è arrivato il momento di fermarti e di chiedere aiuto. Esattamente, quindi a prescindere da questo poi alcuni agenti di commercio per esempio si uniscono e fanno magari per una zona molto ampia una loro piccola magari rete di vendita, per cui magari insieme gestiscono tutta una regione e magari fanno la zona più piccolina ma vendono più mandati, perché gli agenti di commercio sono monomandatari e plurimandatari. I monomandatari sono quelli che lavorano per una sola azienda e la rappresentano solo quella, e i plurimandatari perché magari hanno un'azienda di penne, una di blocchi di carta, magari vanno a cercare una che venda delle calcolatrici. Si può fare sinergia, a quel punto in questo modo si può fare assolutamente sinergia, ci sono molti che la stanno facendo. Allora, per ottimizzare. Possiamo fare ancora una domanda? Non lo so, credo che le leggiamo noi, magari facciamo così. Allora, Vinicio da Firenze, faccio questa telegrafica domanda a Davide Ricci, chiede: se il 70% del PIL è ricavato dal lavoro degli agenti, ci sarebbe bisogno che alcuni strumenti tipo l'auto fossero interamente detraibili. Non siete una lobby sufficientemente forte per portare avanti queste istanze? Gli agenti di commercio sono gli unici che possono scaricare totalmente l'IVA, quindi qualcosa già c'è. Certo, si può fare di più? Sicuramente si può fare di più, come dicevano dei cantanti che mi piacciono molto. Non riusciamo ad accontentare Pierpaolo e Vincenzo, ma rifaremo l'anno prossimo questa trasmissione da questa sede. Vi aspetto, giuriamo. Magnifiche. Grazie a Davide Ricci. Grazie al professor Pagani. Grazie a voi tutti. Un applauso a voi. Grazie. Noi torniamo lunedì con Cuore Denari da Milano. Buon weekend a tutti. Natura, nutrizione scientifica. Vi ha presentato. e denari.